Hey, Jamie Tight. Non so se sono nato per brillare, però sono portato per strillare, strillare. Faccio rap che ti cambia, sarei stato il meglio anche se fossi nato in Finlandia. Litmanen, ho rime che ti fanno usare la testa, sia perché pensi, sia perché la muovi da sinistra a destra. E lei rimane, fammi la festa quando entro su un beat, perché ci entro così. Tu rappi da lunedì e mi vorresti dissare. Dai, metti due rime in fila, competi col killer. Segnali di tracce su quel cartone del latte, trovi le facce di chi è uscito prima. Aspiro fino a quando non si respira, una mista che ti rovina. Tito una cima grossa come il fungo di Hiroshima, conosciuto come l'aspiratore roventa. 10 grammi per chi non sa contenta. Continuo così, mi sa che non arrivo manco a 30. La cosa brutta è che non mi spaventa, non mi fermo a 16, ne scrivo quante mi pare. Non mi puoi quantimizzare, un mistero Apollo 13. Credici neanche con un'equipe di medici. Scopri che cazzo c'ho in testa prima di scrivere, ma che non me vedici. Sono in trance come Ray Charles quando suona il piano. La mia merda non suona piano, non ti esplode il divano. Davvero questo spacca e non è nato a Milano. Da King Supreme finalmente sai come mi chiamo. Poi scopri che ho rappato più degli altri 5 anni, senza una vacanza agosto a casa in stanza liquefarmi, per dimostrare di non essere uno degli altri che rappa, ma quello che rappa meglio degli altri lo so. Vorresti più argomenti, ma c'ho 23 anni e c'ho già abbastanza drammi per 4 dischi. Se arrivo più avanti avrò cose più mature da dirti. Adesso voglio divertirmi, scopare un paio d'ore e non rivestirmi. Jamie Tight, sono letale nel rap game come lights in un club gay. Fagat! Se sanno che ci sto io sulla traccia scrivono 12 volte, ma le bugie hanno le gambe corte come gli esplosivi. Esplodo C4, prova X Factor, cerca il riscatto e resta tra i pesciolini. Frate, io spacco l'impianto, senti l'impatto sulla faccia. Questi sono i fatti, il resto è carta straccia. Faggots!